English Bit di Giulia Crivelli. Job. Adidas did a great job, but Nike was complacent. Il settimanale economico americano Bloomberg Business Week ha intitolato così un articolo dedicato alla rivalità tra i due colossi dello sport, la tedesca Adidas e l'americana Nike. Adidas ha fatto uno splendido lavoro, ma Nike ha peccato di superbia. La prima parola che ci interessa è job, che significa lavoro, come ormai sappiamo anche in Italia per via del Jobs Act, che se fosse una legge americana, Act in America significa anche provvedimento legislativo, non avrebbe quella S. Ennesima dimostrazione che se si vuole usare una lingua straniera per sembrare più furbi, bisognerebbe almeno usarla a proposito. Ma questo è un altro discorso. Job, dicevamo. She took a job as a waitress. Accettò un lavoro come cameriera. The takeover of the company is bound to mean more job losses. La vendita dell'azienda significherà senz'altro altri tagli alla forza lavoro. She's never had a steady job. Non ha mai avuto un lavoro stabile. Ci sono poi significati più sfumati. It's my job to lock up after everyone has left. È compito mio chiudere a chiave dopo che tutti se ne sono andati. That must have been an inside job. Quello deve essere stato un lavoro dall'interno. It's real wood, not one of those plastic jobs. È legno vero, non uno di quei lavoretti in plastica. Jobless significa senza lavoro. The closure of the Italian plant left 500 people jobless. La chiusura dello stabilimento italiano creò 500 disoccupati. To job hunt vuol dire cercare lavoro. To hunt è cacciare. At that time I had been job hunting for 6 months. All'epoca erano 6 mesi che cercavo lavoro. Ma torniamo a Business Week. Interessante la parola complacent, un false friend, non significa compiacente. Il significato è too satisfied with yourself, with a situation, so that you don't feel change is necessary. Da qui la traduzione, peccare di superbia. Complacent vuol dire appunto essere talmente soddisfatti di se stessi da non capire che può essere necessario cambiare. Secondo il settimanale americano è quello che è successo a Nike, che sta quindi perdendo quote di mercato a favore di Adidas. C'è anche il sostantivo, despite signs of an improvement in the economy, there's no room for complacency. Nonostante l'economia dia segnali di miglioramento, non è il momento di sentirsi soddisfatti.